ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Buon pomeriggio, buona domenica dalla Sicilia alla Toscana. Oggi vi portiamo sulle pendici dell'Etna in mountain bike fino a 2000 metri tra faggi e pini millenari e poi saliamo su per la Toscana pedalando su bellissime strade panoramiche tra Querce e Corbezzoli, attraversando paesi anche meno conosciuti come Radicondoli, Sovicille, Casole, Monticciano, insomma due diverse proposte di itinerari cicloturistici alla portata assolutamente di tutti, famiglie con bambini comprese. Esperienze di viaggio che abbiamo raccolto andando a curiosare tra le varie proposte di itinerando la fiera del turismo esperienziale che si è tenuta a Padova lo scorso fine settimana. Cominciamo con Maurizio Scalia di Etna Bike Tour. Allora, abbiamo diverse offerte, diverse tipologie di viaggi. L'escursione giornaliera, che è quella che diciamo ci permette di vivere il vulcano. Il vulcano è attivo più grande d'Europa. Vivere il vulcano cosa significa? Significa pedalarci sopra, magari ascoltando il respiro del vulcano, perché essendo attivo è sempre in costante attività, a volte delle esplosioni, a volte delle degassazioni, a volte, anche se siamo fortunati, anche delle piccole eruzioni che riusciamo a vedere mentre pedaliamo. In tutta sicurezza comunque, perché chiaramente il vulcano è molto grande, 3300 metri di quota. Noi nei nostri giri più, diciamo, più tranquilli ci fermiamo intorno a 2000 metri di quota. E il terreno com'è? Pedalare sopra il vulcano, quindi? Abbiamo portato nel terreno. Questo è dei minerali, questo è del materiale piroclastico che è stato espulso in una delle classiche esplosioni dell'attività esplosiva del vulcano. Queste sono quelle che viene espulse nell'atmosfera e poi cadono per terra. Quindi si pedala sopra questo? Si pedala sopra questo, si pedala dentro foreste di pini, di abeti, di faggi, perché è tutta una continua alternanza di cambi di scenario. C'è la foresta fitta di pinete millenarie, che poi c'è interrotta improvvisamente da una colata lavica che chiaramente prende il suo spazio, dove non cresce niente. E poi ricominciamo con di nuovo le foreste. È estremamente affascinante da questo punto di vista. E chi partecipa di solito a queste escursioni? Guarda, adesso negli ultimi anni, con l'avvento delle bici elettriche, l'audience è molto variegata. Si parla dai ragazzini di 12-13 anni, che comunque devono avere una minima esperienza di maneggevolezza della bici, a anche persone un po' più grandi, un po' più anziane. L'ospite più grande che abbiamo avuto, più grande, è un ragazzino di 80 anni, Lance, dal Massachusetts, che ha proprio voluto festeggiare il suo 80° compleanno con una pedalata sull'Etna in mountain bike. E dove si dorme? Si dorme, noi preferiamo ospitare i partecipanti in piccoli agriturismi a conduzione familiare, dove il cibo è fatto in casa, della cucina tradizionale siciliana, con un buon bicchiere di vino. Sull'Etna ci sono degli chalet in legno molto caratteristici, graziosi, immersi nella natura, dove veramente si vive la tipica atmosfera siciliana. E non vi è mai capitato un contrattempo? Guarda, adesso oltre i giri per i turisti organizziamo... Non è che ve la volevo tirare, come si dice a Roma, però. Organizziamo anche delle manifestazioni, una grande gara internazionale di mountain bike che si chiama l'Etna Marathon. Ne abbiamo fatte già 14 edizioni, su 14 edizioni non abbiamo mai dovuto modificare qualcosa per l'attività vulcanica. Per il maltempo sì, a volte abbiamo dovuto accorciare, ma per l'attività vulcanica, per diciamo le bizze del vulcano, ancora no. E in Sicilia come va il cicloturismo? Siamo dei pionieri, nel senso che cerchiamo, ecco, di organizzare, malgrado tutto, i trasporti. Ancora moltissimi trasporti non prevedono l'imbarco sui pullman o anche sui treni delle bici. Piste ciclabili o comunque percorsi ciclabili ce ne sono molto pochi. Posso vedere dal mio piccolo osservatorio, negli ultimi 4 anni la nostra attività ha sempre avuto degli aumenti anno su anno. L'anno peggiore è stato un più 33% del... Poi sempre siamo andati in incremento, più 40, più 50, quindi è un mercato in fortissima espansione. Il fatto che ancora non sia tanto sviluppato va bene per noi, che siamo già partiti diversi anni fa. però se ci fossero più strutture, più infrastrutture, più percorsi dedicati, segnalati per i cicloturisti, sia con guida che con in autonomia, ci sarebbe diciamo tanto da guadagnare per tutti. E dalla Sicilia alla Toscana siamo andati a curiosare poi nello stand di Terre di Casole Bike Hub del Grand Tour della Val di Mersa in Toscana, zone meno conosciute ma non meno suggestive. Sentiamo. Siamo qui a Itinerando insieme a Silvia Livoni, esperta in marketing territoriale in cicloturismo e anche creatrice, fondatrice del Terre di Casole Bike Hub. Che cos'è questo Bike Hub? Il Terre di Casole Bike Hub è principalmente un grande contenitore in Toscana, in una zona della Toscana forse meno conosciuta all'estero, che è la Val d'Elsa, e in mezzo a Volterra, San Gimignano e San Galgano. E dentro a questo contenitore troviamo tutti i servizi e tutte le bellezze che un cicloturista, un ciclista vorrebbe conoscere in un territorio, un gruppo di strutture che sono attrezzate proprio per ospitare i ciclisti, sia dalla bike room che da una colazione energetica, che avere tutti gli itinerari a portata di mano, questi alcuni esempi, ai servizi di trasporto bagagli che va anche dall'aeroporto ma anche da una tappa all'altra per coloro che vogliono poi fare un tour itinerante, alle guide che ti possono accompagnare piuttosto che al noleggio bici. E a tutto questo abbiamo aggiunto dei servizi, come li abbiamo definiti noi, not only bike, che sono esperienze parallele anche per gli accompagnatori, e possono essere la caccia al tartufo, e la passeggiata col falconiere, uno show cooking, quindi un corso di cucina. A chi vi rivolgete? Il nostro pubblico è un pubblico sia italiano che straniero. Devo dire che sempre più stranieri sono arrivati sia individualmente che con tour operator. È un target molto eterogeneo, perché c'è il ciclista che si vuole allenare, molte volte prende la nostra guida molto allenante e vuole fare dai 60 ai 100 km al giorno su percorsi, sono sempre strade condivise ma molto poco trafficate, quindi non c'è il traffico delle auto, quindi in sicurezza anche, che è un argomento per noi molto caro, e il cicloturista, quindi anche colui che arriva capisce che questa zona è evocata per la bicicletta e magari con una e-bike, perché non è così allenato, vuole fare il suo giretto da 40 chilometri magari con una degustazione di vino. E voi insomma coccolate il cicloturista in mille modi? Direi proprio di sì, lo coccoliamo, perché poi tornano, si affezionano, ed è un po' come se il Terre di Casole Bike Hub diventasse il bike hub di tutti, quindi è una destinazione che accoglie e che avvolge soprattutto con questi territori, quindi si va da paesaggi molto diversi, perché se pedaliamo in percorsi che vanno verso il Volterrano abbiamo degli itinerari che ci fanno vedere i lecci, le querce e i corbezzoli, dipende dalla stagione, e abbiamo strade molto panoramiche e si arriva a vedere anche il mare di Cecina, e piuttosto che nel Chianti, piuttosto appunto nella Gran Tour Val di Merse, dove ci sono dei bellissimi percorsi, si arriva alla Basilica di San Galgano e riusciamo ad essere in mezzo ai boschi, alternato a delle bellissime colline che assomigliano a quelle più note della Val d'Orcia. Quindi forse una Toscana anche un po' meno conosciuta, no? Assolutamente, sicuramente Val d'Elsa e Val di Merse, con i sei comuni che li rappresentano, quindi partiamo dal comune di Casole, comune di Radicondoli, di Murlo, di Sovicille, di Monticiano e di Murlo, forse me ne sono persa uno, e è una parte della Toscana, l'altra Toscana noi la chiamiamo, quindi non è il Chianti, non è la Val d'Orcia, e il turista straniero, dopo che ha conosciuto tante volte Firenze, dopo che ha conosciuto queste destinazioni, si innamora di questa Toscana. Adesso il circuito quanti chilometri ha? Il percorso permanente del Grand Tour Val di Merse sono 179 chilometri, attraversa appunto questi sei comuni, e la cosa particolare è che in ogni comune ci sono delle caratteristiche ovviamente che si possono apprezzare, dai musei etruschi a una particolare terrazza su Radicondoli e a Sovicille, che è un bellissimo borgo, e abbiamo appena istituito con i sei sindaci il fatto, un po' un premio al valore di coloro che riescono a percorrerlo e vengono premiati dai sindaci. Ecco, poi c'è una novità che partirà in primavera. A primavera a Casole d'Elsa partirà il progetto che tende a valorizzare sia la sicurezza sulla strada ma anche la mobilità sostenibile anche per i locali. Quindi insieme sempre alla pubblica amministrazione e agli operatori, in questo caso sono i caffè di Casole, sono 4 bar, ci sarà il caffè sospeso per ciclisti. Ovviamente la condizione è di recarsi con una bicicletta, quindi di pedalare per arrivare al caffè e di essere col casco, proprio per mantenere e per fare un focus sulla sicurezza sulle strade. E dunque queste erano due proposte di itinerari che si possono percorrere in bici, ma di cicloturismo si parlerà molto anche a Cosmo Bike, uno degli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati di bici. L'organizzatore Paolo Coin ci spiega cosa accadrà il 15 e 16 febbraio a Verona. Cosmo Bike è il festival della bici, è l'appuntamento che riapre la stagione ciclistica, l'occasione per parlare di quelli che saranno i grandi appuntamenti come il Giro, occasione per vedere i modelli che saranno protagonisti della nuova stagione e un'occasione comunque per fare cultura della bici, quindi si parlerà di cicloturismo, si parlerà di sicurezza, si parlerà di tutto quello che in questo momento è importante per spingere questo fenomeno che è quello dell'uso della bici. Abbiamo poi, ci teniamo in maniera particolare, una mostra dedicata a Pantani, che quest'anno avrebbe compiuto 50 anni, quindi ci saranno le bici di Marco, ci saranno le bici dei ragazzi del suo team, ci sarà un racconto di quella che è stata la vicenda mitica di Marco Pantani, perché Cosmo Bike è un evento che ha un cuore, interpreta il tema della passione fondamentalmente. E allora appuntamento 15 e 16 febbraio a Cosmo Bike di Verona. Noi ci fermiamo qui, buona giornata e buone pedalate.